Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Your molecular structure is really something fine. A first-rate example of functional design. Those cosmic undulations are steady coming through. Your molecular structure, baby, me and you. Your cellular organization is really something choice. Electromagnetism about to make me lose my voice. Got all my circuits open, my system's reading gold. Buongiorno a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan dalla parte degli altri animali. Una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo oggi arrivati alla puntata numero 526, nella quale parleremo di Cina virus e selvaggina, rampolli armati e orrori intensivi. Speriamo di avervi incuriositi. Your molecular structure is really something fine. A first-rate example of functional design. Those cosmic undulations are steady coming through. Your molecular structure, baby, me and you. Your cellular organization is really something choice. Electromagnetism about to make me lose my voice. Got all my circuits open, my system's reading gold. Your cellular organization, baby, stop the show. Trattiamo sempre di attualità cercando di osservarla attraverso lo sguardo degli altri animali. E non possiamo quindi evitare di parlare del coronavirus, delle sue conseguenze sulle vite dei nostri cugini non umani. La notizia viene dalla Cina, dove quasi 20.000 allevamenti di animali selvatici che allevano specie, tra cui pavoni, zibetti, istrici, struzzi, oche selvatiche, cinghiali, sono stati chiusi sulla scia del contagio da coronavirus. Fino a poche settimane fa l'allevamento di animali selvatici era fortemente promosso dalle agenzie governative cinesi come attività economica utile alla crescita delle zone rurali. Tuttavia oggi si ritiene che l'epidemia di Covid-19, che si dice abbia provocato quasi 3.000 morti e oltre 80.000 infezioni, abbia avuto origine dalla fauna selvatica venduta in un mercato di Wuhan all'inizio di dicembre. Ciò ha provocato un ripensamento da parte delle autorità cinesi. La Cina temporaneamente ha vietato il commercio di specie selvatiche per frenare la diffusione del virus. Questo è successo alla fine di gennaio e ha dato avvio a un giro di vite sulle strutture di allevamento dall'inizio di febbraio. I principali funzionari legislativi del paese si stanno affrettando a modificare la legge sulla protezione della fauna selvatica per rendere più stringenti le norme sul suo utilizzo, sia come cibo sia nella medicina tradizionale cinese. L'epidemia di coronavirus sta rapidamente spingendo la Cina a rivalutare le sue relazioni con la fauna selvatica, ha detto così al Guardian Steve Blake, capo rappresentante di Wild Aid a Pechino. Esiste un alto livello di rischio sia per la salute umana che per gli impatti sulle popolazioni di questi animali in natura. Il Congresso nazionale ha pubblicato nuove misure che limitano il commercio di animali selvatici e vietano il consumo e la vendita della loro carne. In futuro, però, una legge potrebbe regolamentare questo mercato in maniera definitiva. L'idea che l'addomesticamento della fauna selvatica debba rappresentare una parte fondamentale dello sviluppo rurale, dell'ecoturismo e della riduzione della povertà andrà quindi rivista. Ma un rapporto del 2017 valuta il settore dell'allevamento di fauna selvatica a 520 miliardi di yuan, ovvero 64 miliardi di euro. Sarà la Cina capace di rinunciare a queste cifre astronomiche, ci chiediamo. Di una cosa però siamo certi, se lo farà sarà a beneficio della salute pubblica umana e non per difendere i diritti degli altri animali. Seguiremo il caso per capirne gli sviluppi. Nel pieno dell'emergenza e della psicosi causate dal coronavirus, è forse il momento di fermarsi qualche minuto a riflettere. Lo facciamo a partire da un'osservazione di Ilaria Capua, virologa di chiara fama, secondo la quale, fino a che tratteremo male gli animali e la terra, dovremo aspettarci fenomeni di questo genere sempre più frequenti. Siamo dunque più in là di una semplice constatazione che i processi di globalizzazione facilitano la diffusione del virus, oltre che, a dire il vero, degli allarmismi e della psicosi. Capua va più a fondo e ci ricorda, testualmente, che la salute delle persone dipende da come si vive e dove si vive, senza dimenticare che tutto è collegato. Adesso lo vediamo nella sua forma più lampante con il coronavirus. Questa epidemia ha messo in luce, cosa che sapevamo già, come in questo mondo siamo tutti interconnessi. E questo è un fatto, aggiunge ancora Ilaria Capua, che impone di rivedere fin dalla base il nostro concetto di sano e di malato e anche il nostro modo di affrontare la cura. Tutto è collegato e tutti gli esseri viventi, animali e piante, stanno attraversando in questa fase storica la sesta estinzione di massa, causata in modo principale dagli effetti distruttivi delle attività economiche della comunità umana e in particolare di quel quinto dell'umanità che ha realizzato e tuttora conduce lo sfruttamento industriale e consumistico delle risorse presenti sulla Terra. I geologi hanno chiamato l'attuale era della vita sulla Terra antropocene, una denominazione introdotta solo pochi anni fa di fronte all'evidenza dei cambiamenti intervenuti a causa della rivoluzione industriale e dei suoi sviluppi. Oggi abbiamo tutti il problema di uscire da questa fase storica o almeno di rallentarne la foga distruttiva. Un artista argentino, Thomas Saraceno, ha allestito in questi giorni a Firenze una mostra, si chiama Aria, che contiene una proposta. Dobbiamo immaginare un'era diversa, dice Saraceno, l'aerocene, un'era che abbia una sensibilità proiettata verso una nuova ecologia del comportamento. L'aria, dunque, come riferimento generale, e il ragno come motivo ispiratore. Questo piccolo animale con le sue fantastiche costruzioni aeree, con la sua leggerezza, la sua misteriosa sintonia con l'aria e con il sole. I ragni al centro dell'universo. Sono i ragni che abitano a casa nostra, si chiede l'artista, o siamo noi che viviamo nella loro? Saraceno così propone un cambiamento di prospettiva e lo fa con gli strumenti dell'artista. Installazioni che giocano sulle geometrie, sulle connessioni, sulla leggerezza, sulla sospensione. Altri arrivano a conclusioni simili a partire da prospettive e filoni di studi in apparenza lontani. Ilaria Capua, lo abbiamo visto, è una virologa ed esorta a ragionare in termini di connessione fra tutte le forme di vita. Stefano Mancuso, neurobiologo, nel suo libro La nazione delle piante, ricorda che l'idea, talmente diffusa da essere divenuta un luogo comune, che noi umani siamo fuori dalla natura, è veramente pericolosa. E nei titoli dei vari capitoli del suo libro Costituzione indica già una via d'uscita, per esempio con l'articolo 2, che dice «La nazione delle piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono». O l'articolo 6, il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato. O ancora l'articolo 8, la nazione delle piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso. Giorgio Vacchiano, docente di pianificazione forestale, chiude il suo libro La resilienza del bosco con queste parole. La nostra generazione, la generazione dei giovani che marciano in piazza, forse quella dopo di loro, insieme abbiamo l'occasione di realizzare qualcosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Collaborare come specie a inventare un mondo nuovo. È tempo di cominciare. Ecco, ci sembra di poter dire che un filo comune attraversa tutte queste considerazioni e illumina la fase che viviamo. Il modello estrattivo e di consumo diffuso in Occidente deve diventare rapidamente il nostro passato. La posizione dell'umanità sul pianeta deve radicalmente cambiare. La connessione e la collaborazione fra viventi deve diventare la via maestra per tracciare una nuova rotta. I'm La musica di questa puntata è dedicata tutta al femminile e in particolare lo spazio un po' più sostanzioso lo dedichiamo a un'artista, Grimes, che ha fatto un album che si chiama Miss Antropocene, tanto per stare in tema con gli argomenti della puntata. È un concept album, come si diceva un tempo, in cui questa Miss Antropocene è una dea antropomorfa dei cambiamenti climatici che possa impersonificarne le pericolosità. Ogni canzone è una diversa incarnazione dell'estinzione umana, dice la nostra Grimes, e noi da quest'album ascoltiamo My Name is Dark, voce già allegra. Buon ascolto. Balenottere azzurro è stato avvistato nelle acque costiere intorno all'isola subantartica britannica della Georgia del Sud. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Washington, che hanno contato 55 esemplari in 23 giorni, una quantità di avvistamenti senza precedenti negli ultimi decenni. I dati provengono dal British Antarctic Survey, con il sostegno dell'Università di Auckland. La Georgia del Sud è stata l'epicentro della caccia alle balene all'inizio del XX secolo. Gli arpioni delle barche avevano decimato la popolazione di balenottere per moltissimo tempo, spiega così Trevor Branch dell'Università di Washington. Il fatto che 55 esemplari siano stati avvistati in un territorio così pesantemente predato è semplicemente sorprendente, soprattutto se si tiene conto del fatto che nel 2007 ci sono stati solo un paio di avvistamenti isolati. Le balenottere azzurre sono gli animali più grandi della Terra, spiega ancora Branch, spiegando che le grandi dimensioni di questa specie, insieme all'abbondanza di esemplari prima della rivoluzione industriale, hanno contribuito alla loro cattura di massa. Nel 1966 venne poi introdotto il divieto di caccia. Le ultime stime, nel 1997, contavano meno di 3.000 esemplari, mentre meno di un secolo prima si calcolava una popolazione di circa 239.000 esemplari. Tutti ci auguriamo che le acque della Georgia siano nuovamente sicure per questi animali sorprendenti. Monsters of the air no longer stain hair, and terrors of the night are out in broad daylight. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Lea Dellinger, l'attivista australiana che per denunciare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi ha collezionato ben 22 arresti. L'inchiesta realizzata dalle Iene in Italia, diffusa il 20 febbraio scorso, dimostra quanto ci sia bisogno nel nostro paese di persone come Lea. Gravi carenze igienico-sanitarie, maiali malati, topi, sversamenti incontrollati di liquami a poca distanza dalle abitazioni, cadaveri lasciati marcire, assenza di arricchimenti ambientali. Questa è la scioccante realtà delle fabbriche di maiali, come ha riscontrato Matteo Viviani delle Iene, andato in onda su Italia 1 in collaborazione con la squadra investigativa dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione. Condizioni agghiaccianti, realtà drammatiche per gli animali, illegali e con violazioni importanti a livello di sicurezza sanitaria e di impatto ambientale. Sono condizioni che purtroppo vengono rilevate anche in altri allevamenti, in altre città, oggetto di investigazioni da parte di altre testate giornalistiche nazionali. Ma in quali supermercati, su quali tavole finisce la carne e il prosciutto di maiali allevati in quelle condizioni? L'Italia è tra i paesi considerati dalla Commissione europea come non conformi alla direttiva UE sulle modalità di allevamento dei suini. Tale situazione è stata anche oggetto di relazione da parte degli ispettori veterinari della Commissione europea, che hanno contestato al nostro paese gravi inadempienze nell'applicazione della direttiva di settore, minacciando addirittura l'avvio di una procedura di infrazione. Non è mai inutile aggiungere che la nostra proposta è quella di un'alimentazione cruelty free. Se rinunciassimo a nutrirci del corpo dei nostri cugini animali, questi orrendi lager smetterebbero di esistere. Demons of the deep are going without sleep, and phantoms of the dark have their own place to bark. No need to lock the doors, they're sprouting through the cracks. They're can run for more, their deputizing maniac. Sul web gira una foto che ritrae uno dei figli di Donald Trump mentre brandisce la coda di un elefante smembrato dopo un safari di caccia. Non è un fotomontaggio, infatti i figli del presidente del paese più potente del mondo, Eric e Donald Trump Jr., sono entrambi appassionati di caccia grossa e disposti a pagare decine di migliaia di dollari per uccidere varie specie animali, anche quelle che dovrebbero essere protette. Leopardi, bufali, gazzelle, cervi, elefanti, salmoni, antilopi, alligatori, mufloni, zibetti, kudu, facoceri. Tutti questi animali hanno avuto la sfortuna di finire le loro vite per far divertire queste due tristi persone. La foto che ritrae i fratelli Donald Jr. ed Eric Trump con un leopardo morto è anche stata al centro di una grossa polemica durante la campagna elettorale del loro padre, Donald Trump Sr. Chris Packham, naturalista e conduttore televisivo britannico, al tempo aveva affermato che i due uomini dovevano vergognarsi perché posare accanto a un animale morto è ridicolo e imbarazzante nel XXI secolo. Uccidere per piacere denota una personalità psicopatica, continuava Packham, e non si può dire che sia colpa del padre. Ci dice però qualcosa sull'ambiente e sul modo in cui sono stati cresciuti. Insomma, ci è andato giù abbastanza duro Packham. Qualche anno dopo il giovane Trump si è recato in Mongolia, sponsorizzato dalla maggiore lobby statunitense di produttori di armi, la National Rifle Association, ed ha abbattuto un esemplare di Argali, la pecora gigante considerata in via di estinzione. Accolto in Mongolia come un eroe nazionale, in cambio di pochi spiccioli, Trump e i produttori di armi si sono comprati quel che resta della biodiversità di un paese sovrano che per interessi economici però si è piegato a questo umiliante furto di natura. Passano gli anni, cambiano i tempi, ma non cambia la triste passione per la caccia. Il 22 febbraio sulla zampa.it, lo spazio dedicato alle questioni animali del quotidiano La Stampa di Torino, troviamo la notizia che Donald Trump Jr. è una delle tre persone che si sono aggiudicate i permessi di caccia all'orso nella città di Nome, nel nord-ovest dell'Alaska. Questa città mette in palio il suo patrimonio faunistico in cambio di denaro. Riceviamo migliaia di domande, ha dichiarato Eddie Grasser, direttore del Dipartimento della Conservazione della Fauna Selvatica e della Pesca dell'Alaska, ma nel caso del permesso di caccia all'orso vinto dal figlio del presidente degli Stati Uniti c'era poca competizione. 24 permessi non sono stati assegnati e su 27 solo 3 hanno ottenuto dei vincitori. Uno di questi assegnatari, per l'appunto, è Donald Trump Jr., che ha vinto sborsando solo $1,160, quindi questo è il valore della vita di un orso in Alaska. L'organizzazione statunitense Safari Club International, associazione che conta più di 50.000 cacciatori e che ha come unico scopo statutario to protect the freedom to hunt, quindi proteggere la caccia come diritto, ha a sua volta aperto una lotteria mettendo in palio una spedizione di 7 giorni in Alaska per cacciare i cervi dalla coda nera di Sitka assieme a Donald Trump Jr. Una volta aperta l'asta, la base iniziale è aumentata drammaticamente superando i $190,000. Il viaggio, così costoso, prevede di spostarsi a bordo di uno yacht di lusso lungo le aree costiere della foresta nazionale di Tongass, con soste a base di polvere da sparo. Alla triste passione di Trump Jr. per la caccia, la ricetta di questa settimana, curata dal fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang. Il tema da affrontare oggi è Trump Jr. e la sua caccia all'orso. Che dire, solo a leggere o ascoltare la notizia, come si dice qua, mi pizzicano le mani. E a proposito di cose che fanno prudere, campi e giardini sono già ricchi di piante di ortica, che con le dovute accortezze ci offrono delle cime deliziose. Con l'augurio che il giovane Trump cada dentro a una bella piantagione di ortiche, ecco la ricetta della farfrittata morbida alle ortiche. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di cime di ortiche, 100 g di tofu, 100 g di farina di ceci, un cipollotto fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Bang bang, my baby shot me down, down, down, down, down, down, down. Con molta attenzione e un paio di guanti, lavate bene le cime di ortica, quindi fatele scottare per 5 minuti in acqua leggermente salata. Togliete dal fuoco e lasciate scolare. A parte, affettate il cipollotto e fatelo scottare in padella con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fate rosolare qualche minuto. Unite le ortiche, aggiustate di sale e pepe e fate saltare per qualche minuto, quindi togliete dal fuoco. Adesso scottate il tofu per 10 minuti in acqua leggermente salata. Scolatelo e sbriciolatelo con una forchetta. Diluite la farina di ceci con 250 ml di acqua, unite un cucchiaio abbondante di olio extravergine, sale, pepe nero, il tofu e le ortiche. Fate cuocere il tutto in una padella con olio extravergine a fuoco lento con il coperchio per 10 minuti per lato. Servite calda con del pane integrale grigliato. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco. E la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 527 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.